Anna dai capelli rossi, volume 3, Il baule dei sogni di Lucy Maud Montgomery. Capitolo 1, L'ombra del cambiamento. Il tempo del raccolto è terminato e l'estate si è spenta, mormorò Anna Shirley volgendo uno sguardo sognante sui campi falciati di fresco. Lei e Diana Barry avevano raccolto mele nel frutteto di Green Gables e ora si riposavano dalle fatiche del giorno in un cantuccio assolato dove giungevano bioccoli piumosi di lanugine del cardo selvatico, trasportati dalle ali di un vento che conservava le dolcezze dell'estate, insieme all'inebriante profumo delle felci del bosco stregato. Ma tutto nel paesaggio che le circondava parlava di autunno. Lontano il mare si frangeva, rumoreggiando sulla costa. I campi erano aridi e brulli, marezzati di stoppie dorate. La valle del ruscello ai piedi di Green Gables era trapunta di fiori di un impalpabile viola e il lago dalle acque scintillanti era di un intenso azzurro, non dell'azzurro cangiante della primavera, non del pallido celeste dell'estate, ma di un blu trasparente e immobile, come se le acque avessero relegato nel passato ogni rumore e ogni flusso di emozioni, distendendosi in una calma che mai labili sogni incrinavano. «È stata una bella estate», commentò Diana con un sorriso, rigirandosi all'anulare sinistro l'anello luccicante. «E il matrimonio della signorina Lavendar l'ha come incoronato. Penso che lei e il signor Irving si trovino adesso sulla costa del Pacifico». A me sembra che manchino da un tempo sufficiente a compiere il giro del mondo, sospirò Anna. Non mi par vero che si siano sposati da una sola settimana. È cambiato tutto. La signorina Lavendar e i signori Allan se ne sono andati. Come sembra triste il presbiterio con tutte le imposte chiuse, L'altra sera passavo di lì e ho provato la sensazione che là dentro fossero tutti morti. Non ci sarà mai un altro pastore simpatico come il signor Allan, decretò Diana con aria lugubre. Penso che quest'inverno avremo ogni genere di sostituti e per metà domeniche nemmeno una funzione e senza di te, Gilbert, sarà una noia mortale. Beh, ci sarà Fred, insinuò maliziosamente Anna. Quando arriverà la signora Lind? Domandò Diana come se non avesse sentito l'osservazione di Anna. Domani. Sono felice che venga, ma ci sarà un altro cambiamento. Marilla ed io abbiamo pulito ogni angolino della stanza degli ospiti. Odio farlo, sai. È sciocco, naturalmente, ma avevo la sensazione di commettere un sacrilegio. Quella vecchia stanza di riserva è sempre stata una sorta di santuario per me. Quando ero piccola pensavo che fosse il posto più meraviglioso del mondo. Tu sai quanto fosse bruciante il mio desiderio di dormire in una camera destinata agli ospiti, ma non in quella di Green Gables. Oh no, quella mai. Non avrei potuto chiudere occhio per la paura. Non ci ho nemmeno mai camminato, neppure quando Marilla mi mandava per una commissione. No, davvero. Saltellavo in punta di piedi, trattenendo il fiato proprio come se fossi in chiesa, e tiravo un sospiro di sollievo appena ne uscivo. Ai lati di uno specchio c'erano i ritratti di George Whitefield e del duca di Wellington, uno per lato, e mi fissavano tutto il tempo con uno sguardo corrucciato, specie se lanciavo occhiate furtive alla mia immagine riflessa nello specchio, che era l'unico in tutta la casa a non deformarmi la faccia. Mi domandavo come facesse Marilla a fare le pulizie in quella stanza, e ora non è stata soltanto tirata a lucido, ma anche spogliata dei mobili. George Whitefield e il duca di Wellington sono stati relegati nel vestibolo del piano superiore. Sic transit gloria mundi, concluse Anna con una risata in cui tremava un'ombra di rimpianto. Non è mai piacevole assistere alla dissacrazione dei nostri santuari, anche quando abbiamo superato il timore che ci ispirano. Oh, mi sentirò perduta quando te ne sarai andata, gemette Diana per la centesima volta. E pensare che prenderai il volo la settimana prossima. Ma staremo ancora insieme, esclamò Anna con trasporto. Non dobbiamo permettere che la settimana prossima ci rubi la gioia di questa. Anch'io detesto il pensiero di andarmene. Amo così tanto questa casa. Ma a proposito di sentirsi perduti, sono io quella che dovrebbe lamentarsi. Tu rimarrai qui con una quantità di amici cari e Fred per di più, mentre io sarò sola tra estranei, senza conoscere anima viva. Beh, eccetto Gilbert e Charlie Sloane, la rimbeccò Diana, imitando le accentazioni enfatiche di Anna e il suo tono malizioso. Charlie Sloane mi sarà certo di grande conforto, convenne sarcastica Anna. E le due irresponsabili damigelle scoppiarono a ridere. Diana conosceva perfettamente quello che Anna pensava di Charlie Sloane, ma nonostante le loro fitte conversazioni confidenziali, non sapeva con esattezza quello che pensava di Gilbert Blythe. Per la precisione, nemmeno Anna lo sapeva. Per quanto ne so, quei due possono essere dislocati al lato opposto di Kingsport. Continuò Anna. Sono contenta di andare a Redmond e sono sicura che mi piacerà dopo un po', ma credo proprio che per i primi tempi non lo gradirò affatto. Non avrò nemmeno il conforto di tornarmene a casa per il fine settimana, come quando ero a Queens. Natale mi sembra lontano, migliaia di anni. Tutto sta cambiando o sta per cambiare, concluse tristemente Diana. Sento che niente sarà più lo stesso, Anna. Siamo arrivate al punto in cui le strade si separano, temo, meditò Anna. Dovevamo arrivarci. Pensi ancora che crescere sia davvero così esaltante come credevamo quando eravamo bambine? Non lo so. Ma accadono anche cose piacevoli, rispose Diana, carezzando l'anello che portava all'anulare con un piccolo sorriso che fece sentire Anna esclusa e inesperta. Ma ci sono anche una quantità di complicazioni. Talvolta mi sento come se crescere mi terrorizzasse e allora darei qualunque cosa per tornare bambina. Ci abitueremo presto a essere adulte, esclamò allegramente Anna. Non ci imbatteremo in avvenimenti inaspettati, anche se sono convinta che gli imprevisti siano il sale della vita. Abbiamo 18 anni, Diana. Fra 2 anni ne avremo 20. Quando ne avevo 10 pensavo che 20 anni fossero un'età avanzata per una ragazza. In un batter d'occhio tu sarai una compassata matrona di mezz'età e io una deliziosa vecchia zitella. La zia Anna, che giunge in visita durante le vacanze. Avrai sempre un cantuccio per me, vero, Dianetta mia? Naturalmente non la camera degli ospiti. Le vecchie zitelle non possono aspirare a tanto e io sarò umile quanto Uriah Heep e mi accontenterò di un buchino sotto il portico o dietro il salotto. Che sciocchezze dici, Anna? Rise Diana. Tu sposerai qualche giovanotto splendido, bello e ricco e nessuna stanza degli ospiti sarà sufficientemente elegante per te qui ad Avonlea. Tu arricerai il naso al cospetto di tutti gli amici della tua giovinezza. Sarebbe un autentico peccato. Il mio naso è piuttosto grazioso e ho l'impressione che lo rovinerei a tenerlo arricciato, replicò Anna, battendo il dito sul pregevole organo in questione. Non ho delle fattezze così mirabolanti da potermi permettere di sciupare quelle poche che lo sono, e quindi, anche se dovessi sposare il re delle isole cannibali, ti prometto che non arriccerò mai il naso al tuo cospetto. Con un'altra allegra risata, le due ragazze si separarono, Diana per ritornare a Orchard Slope e Anna per recarsi all'ufficio postale, dove trovò ad attenderla una lettera. Quando Gilbert Blythe la raggiunse sul ponte del lago delle acque lucenti, la fanciulla brillava per l'eccitazione. Anche Priscilla Grant verrà a Redmond, esclamò. Non è magnifico? Oh, lo speravo tanto, ma suo padre non era affatto d'accordo. Adesso lo è, comunque, e cercheremo alloggio insieme. Con Priscilla al mio fianco mi sento di affrontare lancia in resta un'intera armata e tutti i professori di Redmond schierati insieme in ordine di battaglia. Credo che Kingsport ci piacerà, affermò Gilbert. Mi hanno detto che è una bella cittadina e che ha il più bel parco del mondo. Ho sentito che da lì il panorama è magnifico. Mi domando se può esistere qualcosa di più bello di tutto questo, mormorò Anna, volgendo intorno gli occhi rapiti e innamorati di chi considera la propria casa il posto più amabile del mondo. Non importa quali posti più magici possano esistere sotto stelle straniere. Si sporsero dal ponte del vecchio stagno proprio nel punto in cui Anna si era arrampicata dalla sua zattera alla deriva il giorno in cui Elaine era stata trasportata a Camelot dalla corrente. Assaporarono fino in fondo l'incanto del crepuscolo. Lo sgargiante color porpora del tramonto ancora indugiava nella parte occidentale del cielo, ma la luna già sorgeva e le acque si stendevano nella sua luce simili a un sogno d'argento. Il ricordo gettò un incantesimo dolce e sottile sui due giovani. «Sei molto silenziosa», disse infine Gilbert. «Ho paura di parlare o di muovermi per il timore che a spezzare il suo silenzio tutta questa meravigliosa bellezza svanisca», sospirò Anna. Gilbert posò la sua mano su quella più piccola e bianca, appoggiata sul parapetto del ponte. I suoi occhi nocciola si persero nel buio mentre le labbra ancora infantili si aprivano per rivelare qualcosa dei sogni e delle speranze che gli palpitavano nell'anima, ma Anna liberò la propria mano e volse furtiva il capo. Per lei l'incanto del crepuscolo si era rotto. «Devo tornare a casa», esclamò con spensieratezza un po' forzata. «Marilla ha avuto un gran mal di testa nel pomeriggio e sono certa che a quest'ora i gemelli staranno combinando qualche orribile misfatto. Oh, non avrei dovuto davvero star fuori così a lungo». Anna chiacchierò senza posa e in maniera inconcludente finché raggiunsero la strada per Green Gables. Il povero Gilbert ebbe a malapena la possibilità di inserirsi con qualche parola. Nel cuore di lei c'era stata una nuova, segreta consapevolezza nei riguardi di Gilbert fin dal fugace momento della rivelazione nel giardino di Echo Lodge. Qualcosa di estraneo si era intrufolato nel vecchio e perfetto compagno di scuola, qualcosa che minacciava di rovinare tutto. «Non mi sono mai sentita felice nel vederlo partire prima d'ora», pensò Anna tra il risentito e il dispiaciuto, mentre si avviava sola lungo la strada. «La nostra amicizia si rovinerà del tutto se lui si ostinerà a continuare con queste sciocchezze. Non deve rovinarsi, non lo permetterò. Oh, ma perché i ragazzi non si limitano a essere camerateschi?» Nutriva un dubbio spinoso intorno al fatto che la stretta di mano di Gilbert, di cui avvertiva ancora il calore, si fosse limitata a essere correttamente cameratesca, anche se il tocco era durato pochi rapidi secondi. E ancor meno cameratesca era stata la consapevolezza che si trattava di una sensazione gradevole, ben differente da quella che aveva provato quando le era stato reso un analogo omaggio da Charlie Sloane dopo aver interrotto un giro di danza per andare a sedersi con lui durante la festa a White Sands 3 sere prima. Anna rabbrividì a quel poco simpatico ricordo. Ma tutti i problemi relativi ai suoi ardenti innamorati le uscirono di mente non appena fu inghiottita dall'atmosfera casalinga e aliena da ogni sentimentalismo della cucina di Green Gables, dove un ragazzino di 8 anni piangeva calde lacrime. «Che cosa è successo, Davy?» si informò Anna prendendolo tra le braccia. «Dove sono Marilla e Dora?» «Marilla sta mettendo a letto Dora», singhiozzò Davy. «E io sto piangendo perché Dora è caduta a testa in giù sulle scale esterne della cantina con i calcagni sulla zucca e si è sbucciata tutta la pelle del naso e...» «Su, non piangere, caro. È chiaro che sei dispiaciuto per lei, ma piangere non l'aiuterà affatto. Vedrai che domani starà benissimo. Piangere non aiuta nessuno, ragazzo mio, e...» «Ma io non piango perché Dora è caduta in cantina», affermò Davy, interrompendo bruscamente il saggio sermone di Anna con crescente amarezza. «Io sto piangendo perché non ero là a vederla cadere. Mi sono perso un gran bello spettacolo, mi pare. Oh, Davy!» Anna soffocò a stento un infelice scoppio di risa. «Lo chiami divertimento? Oh, la vista della povera Dora che rotola sugli scalini facendosi male!» «Non si è fatta poi così male», replicò Davy con aria di sfida. «Certo che se fosse morta mi sarei parecchio dispiaciuto, Anna, ma i Keith non si lasciano far fuori così facilmente. Sono come i Blewitt, credo. Herb Blewitt è caduto dal fienile mercoledì scorso ed è piombato dritto nello scivolo delle rape fino alla mangiatoia della stalla. Là C'era un terribile cavallo selvaggio di pessimo umore, lui gli è rotolato proprio sotto gli zoccoli. E nonostante ciò ne è uscito vivo con soltanto 3 costole rotte. La signora Linde sostiene che ci sono individui che non puoi uccidere nemmeno con una scure da macellaio. Domani verrà la signora Linde, Anna? Sì, Davy, e io spero che ti comporterai in maniera irreprensibile. Come un angelo. Ma mi metterà sempre lei a letto la sera, Anna? Può darsi, perché? Perché, spiegò Davy con fermezza, se lei vuole che dica in sua presenza le preghiere come faccio con te, farò opposizione. E perché mai? Perché non sarebbe carino parlare con Dio davanti a degli estranei? Dora può dire le sue davanti alla signora Linde, se le va bene, ma io mi rifiuto. Per dirle aspetterò che lei se ne sia andata. Non è giusto, Anna? Sì. Ma solo a patto che ti rammenti di recitarle, ragazzo. Oh, me lo ricorderò, certamente, puoi scommetterci. A me pare che dire le preghiere sia un gran divertimento, ma dirle da solo non è così divertente come dirle alla tua presenza. Oh, vorrei tanto che restassi a casa, Anna. Non vedo perché te ne vuoi andar via lasciandoci soli. Non è che voglia. Devo, disse Anna. Se non volessi, non dovresti. Ormai sei cresciuta. Quando sarò grande non farò una sola cosa che non mi piace al 100%. Per tutta la vita, Davy, ti troverai a fare cose che non ti piacciono al 100%. Io no, ribatté decisamente Davy. Stai fresca. Adesso sono costretto a fare cose che non voglio perché tu e Marilla mi mandate a letto, se non le faccio. Ma quando sarò grande, voi non potrete più farlo e non ci sarà nessuno a dettarmi legge. Non lo permetterò. Sai, Anna, Milty Boulter dice che secondo sua madre tu vai all'università per accalappiare un uomo. È così, Anna? Voglio saperlo. Per un attimo, Anna si sentì fremere di risentimento. Poi scoppiò a ridere, pensando che la cruda volgarità di pensiero e di parola della signora Boulter non poteva toccarla. No, Davy, non vado per questo, ma per studiare e crescere e imparare tante cose nuove. Quali cose? Di navi, di sigilli e di scarpine, di cavoli, di regge e di regine, declamò Anna. Ma se proprio volessi accalappiare un uomo, come ti comporteresti? Voglio saperlo, insistette Davy, per il quale l'argomento possedeva ovviamente un certo fascino. Faresti meglio a chiederlo alla signora Boulter, osservò Anna distratta. Sono convinta che lei conosce il metodo assai meglio di me. Lo farò la prossima volta che la vedo, assicurò Davy. Davy, no! Strillò Anna, rendendosi conto del suo errore. Ma se me l'hai appena detto tu, protestò Davy afflitto. È ora che tu vada a letto, tagliò corto Anna, tanto per levarsi d'impiccio. Quando Davy se ne fu andato, Anna vagabondò fino all'isola Vittoria, per poi sedere tutta sola, velata dall'oscurità che la luna intesseva di raggi d'argento, mentre le acque intorno a lei frusciavano in un duetto tra il ruscello e il vento. Aveva sempre amato quel ruscello e più di un sogno aveva affidato in passato alle sue acque lucenti. Dimenticò a poco i suoi ardenti innamorati, le chiacchiere velenose dei vicini, i pettegoli e tutti i problemi della sua vita di fanciulla. Con la fantasia cominciò a veleggiare nei mari leggendari che bagnano i lidi lontani e splendenti delle fatate terre cadute nell'oblio, dove giacciono perduti Atlantide e Campi Elisi, con le stelle della sera per guida, nelle lande del desiderio del cuore. In quei sogni era più ricca che nella realtà, perché le cose viste scompaiono, mentre quelle mai vedute sono eterne.